Giornale radio del Friuli Venezia Giulia. Bocche cucite, mistero fitto attorno al ritrovamento della pistola in un trolley alla stazione di Trieste un giorno prima dell'arrivo di Papa Francesco in città. A settaccio tutte le videocamere dell'area per risalire al proprietario dell'arma e soprattutto per comprendere se l'arma ha qualche nesso con la visita del pontefice. Si pensava a uno sparo nella notte, in verità si è trattato di un ladro che si è ferito a una coscia tentando di entrare in un'abitazione abbandonata a Udine in via Cividale. Presentati a Trieste i quattro quesiti referendari promossi dal Comitato a difesa della Costituzione e la campagna di raccolta firme per avviare il referendum. Oltre 16.000 gli addetti delle cooperative associate a Lega Coop e FVG che durante l'assemblea dei soci a San Vito traccia le strategie future sulle quali investire accanto ai servizi, le comunità energetiche e i negozi di prossimità. A Ovaro restaurata la chiesetta di San Martino Vescovo e l'area archeologica devastata dalla tempesta Vaia. Da oggi la chiesa con il suo patrimonio archeologico è aperta al pubblico. Senza memoria, il titolo della rappresentazione teatrale itinerante realizzata dal Museo Carnico di Arti Popolari Michele Gortani in coproduzione col Teatro Teatri Stabil Furlan, che torna in scena oggi. L'intervista con gli autori. Buongiorno da Lorenzo Gerlinzoni e Nada Cioc. In apertura, il mistero che sempre rimane fitto sul ritrovamento della pistola all'interno di una valigia lasciata nel bar della stazione ferroviaria di Trieste alla vigilia della visita di Papa Francesco in città. Un fatto che ha attivato anche i corpi dell'antiterrorismo che stanno visionando tutte le telecamere della zona per risalire al proprietario dell'arma. Quando alle 12.15 di domenica Papa Francesco lascia un elicottero Trieste, le autorità di sicurezza tirano un sospiro di sollievo. L'allerta era stata elevata dal giorno prima, quando nel bar della stazione ferroviaria è stata trovata una valigia lasciata da un uomo, come mostrano le immagini trasmesse in esclusiva dal TG1. All'interno una pistola con caricatore e munizioni. Nel trolley, aperto dagli artificieri, ci sono anche abiti e scarpe ancora con le etichette. La telecamera di videosorveglianza del locale riprende un uomo alto, circa 1,75 m, con tratti descritti come medio orientali. Nella vicina tabaccheria hanno notato che era successo qualcosa di particolare, ma non immaginavano si trattasse di un fatto così allarmante. Non è certo il collegamento con la visita del pontefice del giorno successivo, ma il ritrovamento è bastato a rafforzare le misure di sicurezza, incrementata immediatamente la presenza di squadre speciali antiterrorismo di polizia e carabinieri. Le informazioni sono state condivise con le autorità del Vaticano. La procura di Trieste indaga per il momento per porto abusivo d'armi. Si cerca di identificare, di dare un nome a quell'uomo che in maniera anche relativamente ingenua ha lasciato quella valigia, rimasta lì a quanto pare all'incirca mezz'ora, davanti a una telecamera ben in vista. Antonio Di Bartolomeo, TGR Friuli Venezia Giulia. Un uomo è rimasto ferito questa notte a Udine in via Cividale, nei pressi del passaggio a livello. Secondo alcune testimonianze raccolte dalle forze dell'ordine, i residenti della zona avrebbero sentito un botto simile a un colpo d'arma da fuoco e hanno chiamato il 112. L'automedica arrivata sul posto ha trovato un marocchino di 20 anni con una ferita alla coscia. L'uomo avrebbe tentato di entrare in casa in una casa abbandonata. Il ventenne è stato denunciato per tentato furto. Chi ha chiamato i carabinieri afferma di aver sentito un forte botto, come di un tamponamento tra auto. Un'altra vicina parla di schianto. Nelle prime ore della mattina si era diffusa la notizia di un ferimento da colpo d'arma da fuoco a Udine, in via Cividale, a pochi metri dal passaggio a livello. In realtà, il boato, udito alle 23.30 di ieri sera, è dovuto allo schianto di alcune colonne di cemento al suolo. Un ragazzo marocchino di 20 anni stava cercando di entrare in una casa abbandonata da tempo di via Rovigno. Il parapetto deve aver ceduto e il ragazzo si è infilzato la coscia sinistra nella staccionata di metallo. Ferito anche alla spalla destra, è stato suturato dai sanitari intervenuti sul posto con un'ambulanza e un'automedica, ma denunciato per tentato furto dai carabinieri. Quello che è successo ieri sera, io penso che si siano arrampicati e arrampicandosi hanno portato indietro tutto quel materiale che è caduto per terra. Non penso incidenti d'auto, perché la cosa era a posto la terrazza. Una residente afferma di aver visto tre ragazzi chiedere aiuto, fermando macchine e passanti in bicicletta. Nessuno sparo quindi, ma l'episodio sembra inserirsi comunque in un contesto urbano di aumento di povertà e marginalità, denunciato proprio ieri dalla Caritas, soprattutto giovani tra i 18 e i 25 anni che affrontano i rischi della vita in strada. Il ventenne era senza fissa dimora. Da tempo i vicini segnalano persone che dormono in questa casa abbandonata. Il giorno di Natale sono venuti anche a casa mia. Alcuni operatori della rete di associazioni nel settore accoglienza, ricevute questa mattina in municipio, indicano come, a poche centinaia di metri, un grande albergo in disuso accolga da tempo i fuori accoglienza e i senza tetto. Udine, Lillo Montalto Monella, TGR Friuli Venezia Giulia. Il Comitato a difesa della Costituzione ha illustrato a Trieste i quattro quesiti referendari e la relativa campagna di raccolta firme per l'abrogazione parziale della legge elettorale Rosatellum. A Trieste è cominciata a fine giugno la raccolta nazionale delle firme per indire quattro referendum abrogativi dell'attuale legge elettorale nota come Rosatellum, approvata nel 2017. Non potendo abrogare l'intera legge, il Comitato a difesa della Costituzione, che riunisce diverse anime politiche, ha scelto di cancellare le quattro parti che secondo i promotori sono in palese contrasto con i principi della Costituzione, e cioè le norme che prevedono il voto congiunto obbligatorio, le soglie di sbarramento, le pluricandidature e la norma che esenta dalla raccolta delle firme le liste già presenti in Parlamento. Si tratta, hanno sottolineato gli esponenti del Comitato in conferenza stampa, di un complesso di norme che insieme alle liste bloccate sottraggono ai cittadini ogni possibilità di scelta dei propri rappresentanti, consegnando tutto il potere nelle mani delle segreterie dei partiti. Il Rosatellum riproduce con altre modalità la stessa caratteristica del Porcellum, dichiarato incostituzionale nel 2014, vale a dire che si elegge un Parlamento, a detta del Comitato, in cui agli eletti manca il sostegno diretto degli elettori. Sin dal 2017 iniziarono i tentativi di ottenere un giudizio di incostituzionalità sulla nuova legge elettorale e dopo aver tentato con i ricorsi giudiziari, per diversi dei quali è ancora attesa una decisione, il Comitato ha deciso di imboccare la strada del referendum. Si potrà firmare fino a inizio settembre sul sito www.iovoglioscegliere.it. Trieste, Vaciuc, TGR, Friuli Venezia Giulia. 170 soci della Lega Coop del Friuli Venezia Giulia stamattina si sono riuniti in assemblea a San Vito al Tagliamento per l'approvazione del bilancio di una delle maggiori realtà associative in regione, che vale complessivamente 2 miliardi di euro. Sentiamo la presidente di Lega Coop FVG, Michela Vogrich. Quest'anno abbiamo oltre 170 cooperative associate che peraltro a livello regionale rappresentano in termini di fatturato l'aggregato più importante dal punto di vista associativo. Quindi cooperative meno numerose complessivamente rispetto ad altre associazioni, però più grandi in termini di fatturato addetti. I numeri sono importanti e in crescita, oltre 200.000 soci ed oltre 16.000 addetti complessivi. Siamo una realtà che sta crescendo molto, che si sta cercando di specializzare in particolare in alcuni settori. I settori in crescita quest'anno saranno i servizi, in coerenza anche con il trend regionale che ne vede una crescita, però ricordiamoci che la nostra associazione ha come principale settore proprio quello dei servizi. Complessivamente quindi un anno in cui possiamo fare, per fortuna, nonostante il contesto geopolitico molto difficile, dei bilanci assolutamente positivi. Tendenze in atto, sicuramente le comunità energetiche rinnovabili sono per noi un tema centrale. Altri percorsi a cui teniamo molto sono il lavoro sulle aree interne, con le cooperative di comunità, i negozi di vicinato, che sono per noi un fiore all'occhiello, perché se non si parte dalle periferie non si può pensare di far crescere un territorio. In un momento in cui parliamo di glaciazione demografica è evidente che dobbiamo ripartire dalle periferie e la cooperazione deve avere un ruolo strategico nello sviluppo di questi territori. Marinella Chirico, TGR Friuli Venezia Giulia. La polizia locale di Trieste, durante i controlli nelle attività commerciali, ha sequestrato 700 prodotti cosmetici scaduti e 300 prodotti pericolosi per la salute umana, con relativo deferimento all'autorità giudiziaria di due commercianti. Durante l'attività di ispezione svolta dal nucleo all'interno di un'attività commerciale in largo Barriera Vecchia sono stati rinvenuti quasi 300 prodotti tra profumi, creme, dopobarba e via dicendo, contenenti una sostanza sostanza ritenuta cancerogena denominata Lilial, ossia butilfenil metilpropional. La Commissione europea ha vietato dal 2022 la commercializzazione dei prodotti contenenti tale sostanza. Nonostante ciò, il Lilial è ancora presente in molti cosmetici commercializzati sul mercato e per questo gli operatori del nucleo della polizia locale negli ultimi mesi hanno effettuato controlli specifici mirati alla tutela della salute dei cittadini. Tale sostanza, il Lilial, può danneggiare il sistema riproduttivo, nonché può nuocere alla salute del feto e causare sensibilizzazione cutanea. La polizia locale invita i cittadini a leggere sempre le etichette dei prodotti che si intendono acquistare e di consultare il portale RAPEX, sistema comunitario di informazione rapida sui prodotti non alimentari, che si trova sul sito del Ministero della Salute, che identifica i prodotti contenenti sostanze considerate tossiche e pericolose per la salute. 7 lavoratori in nero nel settore della ristorazione, scoperti dalla Guardia di Finanza assieme ai funzionari della struttura prevenzione e sicurezza negli ambienti di lavoro della SUGI. In particolare sono stati scoperti 6 ciclofattorini, rider, che lavoravano senza alcuna forma contrattuale e un addetto in cucina. Al termine delle attività sono state elevate sanzioni per circa 65.000 euro suscettibili di riduzione in caso di regolarizzazione dei lavoratori in palese violazione della normativa giuslavoristica. E siamo al meteo, il cielo è sereno su pianura e costa, variabile in montagna, fa caldo a Trieste 31 gradi e 5 decimi, mare quasi calmo con temperatura di 27 gradi e mezzo, a Gorizia la temperatura è di 34 gradi e mezzo, Pordenone 32 gradi e 5 decimi, Udine 32 gradi, Tolmezzo 29, Forni di Sopra e Tarvisio 26 gradi, Piancavallo e Sappada 23, sullo Zoncolan 20 gradi e 5 decimi, a Lignano 32 gradi e 5 decimi, a Grado 30 gradi e 5 decimi, la temperatura del mare in laguna 28 gradi. Le previsioni a cura dell'ARPA Friuli Venezia Giulia per questo pomeriggio: su pianura e costa cielo sereno poco nuvoloso per qualche velatura, sulla zona montana cielo variabile, non si esclude qualche rovescio temporale, ancora caldo, temperature molto elevate su tutte le località, caldo afoso di giorno e di sera in pianura, anche di notte sulla costa. Domani tempo stabile con cielo sereno, temperature ancora molto elevate su tutte le località, caldo afoso di giorno e di sera in pianura, anche in questo caso di notte sulla costa. Ed è da poco stata pubblicata la nuova classifica delle migliori università europee, redatta dalla società di ricerca Quacquarelli Simons. Trieste si conferma a metà della graduatoria, anche se ha perso 19 posizioni. Udine scivola di 46 posti. Quacquarelli Simons, la più grande rete al mondo di consulenti per l'istruzione universitaria, fondata 34 anni fa da un professore pugliese, ha pubblicato oggi la seconda edizione della classifica europea degli Atenei. Sono 684 quelli presi in considerazione, fra questi troviamo l'Università di Trieste al 334esimo posto, 19 posizioni in meno rispetto all'anno scorso. L'Università di Udine è 424esima e perde 46 posizioni. Leader della classifica quest'anno è il Politecnico di Zurigo, seguono l'Imperial College di Londra e l'Università di Oxford. Quali sono i parametri presi in considerazione? La reputazione, il rapporto numerico fra docenti e studenti, quanto spesso le pubblicazioni vengono citate dai colleghi, il numero di pubblicazioni per ogni ricercatore, la rete di ricerca internazionale, l'attenzione all'ambiente e la facilità per i laureati di trovare lavoro. Trieste è migliorata in 6 indicatori su 12: reputazione, produttività, professori e ricercatori internazionali, scambi di studenti da e verso l'Ateneo. In particolare la reputazione dell'Università di Trieste fra i datori di lavoro ha guadagnato 11 posizioni, segno che la qualità dell'insegnamento e delle capacità acquisite dei laureati pagano. Le ricerche pubblicate però vengono citate poco e questo fa perdere moltissimi punti, così come la diminuita collaborazione transfrontaliera. Male anche l'indicatore di sostenibilità ambientale. Quanto all'Università di Udine, anche qui aumenta la reputazione fra i datori di lavoro e migliora il rapporto numerico fra studenti e professori. Bene anche le collaborazioni internazionali. Udine fatica, come Trieste, a migliorare sul fronte ambientalista. Per aumentare il posto in classifica, suggerisce la società di consulenza QS, entrambe le università dovrebbero affrontare le sfide globali con particolare attenzione al raggiungimento degli obiettivi di sviluppo sostenibile dettati dall'ONU. Ciò include campi come l'energia rinnovabile e la biodiversità. Trieste, Francesca Terranova, TGR, Friuli Venezia Giulia. Diffondere anche in Africa le migliori pratiche nello screening neonatale, nella diagnosi e trattamento della morte improvvisa dei neonati e nella prevenzione e cura dell'anemia falciforme. È un progetto internazionale finanziato dall'Unione Europea per la formazione di ricercatori e personale medico che vede in prima fila ASUFC e Università di Udine. In particolare l'Ateneo Friulano ha ospitato 3 ricercatori medici provenienti da Lusaka, capitale dello Zambia. In Alta Val Torre, nella riserva di caccia di Monte Aperta, le fototrappole hanno fotografato un'orsa con 2 cuccioli. È la prima volta che viene documentata con foto la presenza di una femmina con cuccioli nel nostro territorio. Abbiamo chiesto a Paolo Molinari, ricercatore faunistico, l'importanza di questo avvistamento sotto il profilo scientifico. Sappiamo che i cacciatori collaborano attivamente alla ricerca, lavorano con i collaboratori dei vari progetti accademici. Il valore è elevatissimo perché dopo tanti anni di sforzi a capire la presenza, la distribuzione dell'orso sul nostro territorio, si è riusciti a documentare un evento eccezionale che è quello di una femmina con 2 cuccioli, quindi un evento riproduttivo che rappresenta una grande novità e un ottimo segnale per il futuro della dinamica di questa specie nel nostro territorio. Potrebbe trattarsi di un esemplare che ha sconfinato in Italia e poi magari ritorna in Slovenia? Sì, è molto probabile, però il fatto che ci sia una femmina così vicina al territorio italiano, poi peraltro in territorio italiano, sappiamo che gli orsi, come tutta l'altra fauna selvatica, non conosce e non rispetta particolarmente i confini nazionali, ma si sposta su confini biogeografici. Quindi sì, è probabile che sia arrivata dalla Slovenia e ci torni, però il fatto che sia presente in questo territorio vuol dire che la riproduzione c'è e che probabilmente nei prossimi anni ci saranno ulteriori cucciolate e ulteriori giovani che poi disperderanno verosimilmente anche ancora più a nord e più a ovest sul territorio friulano. Paolo Roncoletta, TGR Friuli Venezia Giulia. A Ovaro sono state completate le opere di restauro della chiesa di San Martino Vescovo e dell'area archeologica. Negli anni 90 alcuni scavi avevano riportato alla luce i resti di un complesso architettonico paleocristiano del V secolo d.C. con una vasca battesimale di notevole interesse. Scavi e chiesetta erano stati poi pesantemente danneggiati dalla tempesta Vaia. Il fango era ovunque, gli interni erano devastati con danni agli intonaci, mentre l'intera area archeologica vicina era sott'acqua e il sistema di illuminazione e ventilazione ormai fuori uso. Si presentava così la chiesetta di San Martino Vescovo a Ovaro dopo l'alluvione provocata dalla tempesta Vaia nel 2018 con l'esondazione del vicino torrente Degano. Ora, a distanza di 6 anni, il sito è stato recuperato con il restauro degli elementi del complesso paleocristiano, come l'antica vasca battesimale interna e tutta l'area archeologica vicina. La chiesa è tornata visitabile e si fanno anche messe e battesimi. Come spiega il parroco Don Gianni Pellarini, questo è un posto cui gli ovaresi sono molto attaccati. In tanti partecipavano alle messe che si tenevano fuori quando la struttura non era ancora agibile. Ai lavori, iniziati subito nel dicembre del 2018 per togliere il fango, sono seguiti i restauri nel 2020 da parte della sovrintendenza della regione. Hanno risanato le coperture e il fonte battesimale, con restauri che hanno riguardato anche gli intonaci e le superfici in pietra colpite dall'acqua. Il recupero ha riguardato anche l'area archeologica, una basilica paleocristiana del V secolo, elemento molto raro vista la latitudine. Adesso l'obiettivo del comune è di abbellire l'area esterna e di metterla in sicurezza con un altro intervento che rafforzerà la scogliera del fiume proprio nel punto in cui è passata l'acqua durante Vaia per impedire che l'alluvione si ripeta. Ovaro, Dario Ronzoni, TGR Friuli Venezia Giulia. favorire la riscoperta dello straordinario patrimonio etnografico carnico, animare gli spazi museali in chiave contemporanea, raccontare la storia del territorio attraverso la contaminazione dei linguaggi artistici. Con questi obiettivi è nato Senza Memoria di Carlo Tolazzi e Massimo Somaglino, rappresentazione teatrale itinerante, intensa e profonda, realizzata dal Museo Carnico delle Arti Popolari Michele Gortani in coproduzione con il Teatri Stabil Furlan. Tre gli spettacoli odierni alle 18, 19, 30 e 21. Sentiamo dal drammaturgo Carlo Tolazzi il perché di questo titolo, appunto, Senza Memoria. Perché la memoria è legata al mantenimento di una cultura, perché la memoria è fondamentale per avere un futuro, perché senza sapere da dove si viene non si può sapere dove si va. Dunque questo spettacolo denuncia una perdita che si sta vivendo in questi anni dell'identità, delle tradizioni, della Carnia? Credo di sì, poi chiaramente nell'immaginario di ciascuno spettatore evocherà le situazioni che più si attagliano ad un argomento del genere, ma sicuramente l'andamento del racconto teatrale evidenzia come la sparizione delle vecchie generazioni può veramente crearsi un vuoto culturale difficilmente riempibile. L'unica notizia positiva è che nelle 39, mi pare, repliche precedenti di questo spettacolo la gente è andata via dal museo dicendo: ma dobbiamo ritornare a vedere con più attenzione questa esposizione. E quando succedono queste cose vuol dire che hai fatto bingo, cioè che hai raggiunto l'obiettivo che ti eri dato all'inizio. Quali sono gli aspetti della Carnia che secondo lei sono più in pericolo? Beh, sono quelli dell'artigianato sicuramente, e poi l'aspetto della relazione, ecco. La comunicazione di oggi, ma è un discorso che vale per tutto, non ha migliorato la relazione fra le persone, ma anzi l'ha più rinsecchita, ecco. In Carnia, che è una zona molto isolata, questo fenomeno si fa sentire sicuramente molto di più. Anche quelle coloriture forse della lingua friulana tipiche della Carnia, ma anche il bagaglio culturale del folklore, la conoscenza del territorio, sono in pericolo? Sì, sulla lingua non c'è speranza, perché il fatto stesso di mandare i bambini nei paesi più grandi a fare le scuole dell'obbligo taglia completamente la possibilità di mantenere il linguaggio originario. Per il resto invece si può recuperare qualcosa, soprattutto anche perché la filmografia, ma anche le produzioni televisive, vanno a cercare questi aspetti vecchi della cultura friulana per ovviamente riproporli, non sempre in maniera ortodossa, ma comunque in un modo o nell'altro si riesce a salvare la riproposizione di questo tipo di cultura. Un'idea per invertire la rotta? Credo ascoltare, perché la gente, soprattutto gli anziani in montagna, hanno bisogno di parlare e lo vogliono fare. Bisogna avere la pazienza di ascoltare. Parliamo ancora di arte a Udine, in Castello, alle 18, vernissage della mostra dal titolo Quando l'arte lascia il segno, 800 romantico, un album friulano, a cura di Giuseppe Bergamini e Isabella Reale. Un excursus dedicato all'avvento e alla diffusione dell'arte litografica che nel corso del XIX secolo ha avuto in Friuli diversi esponenti di rilievo, come Ascanio Savornian di Brazzà, Odorico Politi, Michelangelo Grigoletti, Filippo Giuseppini, Antonio Pontini, Luigi Berletti, Enrico Passero e Giuseppe Chiesa. L'esposizione, organizzata dalla Triennale Europea dell'Incisione, giunta alla sua 43esima edizione, è realizzata in collaborazione con il Comune, i Civici Musei, la Regione Friuli Venezia Giulia, la Fondazione Friuli e con il patrocinio dell'Università di Udine. E con questa notizia chiudiamo questo giornale radio, che è stato redatto e condotto da Lorenzo Gherlinzoni e Nada Cioc, con la collaborazione tecnica di Walter Vidonis e Andrea Fontanota. Ha collaborato in redazione Laura Sarasini. Da tutti noi l'augurio di un buon proseguimento di giornata. Abbiamo trasmesso TGR, giornale radio del Friuli Venezia Giulia.